la pedagogia di Dio nell'antica alleanza. Dice infatti lo Spirito Santo parlando di lui nel Cantico: al popolo nel deserto egli ha dato tutto il necessario, nella sete bruciante, nella terra senza acqua. Lo ha circondato, lo ha educato, lo ha custodito come la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila desidera accudire la sua nidiata, così anch'egli ha desiderato accudire i suoi piccoli. Ha spiegato le ali, li ha raccolti e li ha sollevati sulle sue penne. Solo il Signore li guidava e non c'era con loro un Dio straniero. La Scrittura si riferisce qui con molta chiarezza, mi pare, al pedagogo, descrivendone l'azione educativa. Altrove, parlando in prima persona, designa se stesso come il pedagogo. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. E chi ha il potere di far entrare e di far uscire se non il pedagogo? Egli apparve ad Abramo e gli disse: io sono il tuo Dio, comportati davanti a me sì da piacermi. In modo molto pedagogico lo guidò ad essere un figlio fedele. Gli disse: sii irreprensibile e io stabilirò l'alleanza tra me e te e la tua discendenza. Si ha qui una comunione di amicizia, ma con autorità. Egli fu pedagogo anche di Giacobbe, e ciò risulta chiaramente. Gli dice, infatti: ecco, io sono con te, ti custodisco in ogni sentiero su cui camminerai, ti ricondurrò in questa terra e non ti lascerò finché non avrò fatto quello che ti ho detto. Sta scritto poi che lottò con lui. Giacobbe fu lasciato solo e un uomo lottò con lui, era il pedagogo, fino al mattino. Costui era l'uomo che lo guidava e lo conduceva. Era l'uomo che insieme a lui si allenava e preparava alla lotta contro il male l'atleta Giacobbe. Ora, giacché il Logos era allo stesso tempo l'allenatore di Giacobbe e il pedagogo dell'umanità, quegli, dice, lo interrogò e gli disse: rivelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Teneva infatti in serbo il suo nome nuovo per il popolo novello, il popolo bambino. A quei tempi il Signore Dio era ancora senza nome, non essendo ancora diventato uomo. Tuttavia Giacobbe diede a quel luogo un nome e lo chiamò Visione di Dio, poiché, diceva, ho visto Dio nel volto e la mia anima è salva. Il volto di Dio è il Logos, per mezzo del quale Dio è messo in luce ed è conosciuto. Fu allora inoltre che a Giacobbe venne dato il nome di Israele, allorché vide il Signore Dio. Questi è Dio, il Logos, il pedagogo, che più tardi gli disse: non aver paura di scendere in Egitto. Vedi come il pedagogo va dietro all'uomo giusto, come allena alla lotta l'atleta, insegnandogli a colpire di sorpresa l'avversario. Anche a Mosè egli insegna a fare il pedagogo. Dice infatti il Signore: se qualcuno ha peccato contro di me, io lo cancello dal mio libro. Ora va e conduci questo popolo al luogo che io ti ho indicato. Qui egli insegna la pedagogia. Tramite Mosè, infatti, il Signore fu davvero pedagogo del popolo antico, ma personalmente è la guida del popolo nuovo, faccia a faccia. Ecco, dice a Mosè, il mio angelo cammina davanti a te e innalza così la potenza del Logos, la quale è l'angelo della buona novella ed è la guida. Mantiene però comunque la sua dignità di Signore. Il giorno in cui li visiterò, dice, rinfaccerò ad essi il loro peccato, ossia il giorno in cui siederò giudice li ripagherò dei loro peccati. Egli infatti, che è sia pedagogo che giudice, sottopone a processo coloro che non gli obbedirono, e il Logos che ama l'uomo non passa sotto silenzio il loro peccato, anzi li rimprovera affinché si pentano. Il Signore desidera il pentimento del peccatore piuttosto che la sua morte. E così, quando noi come bambini sentiamo parlare delle colpe degli altri, asteniamoci da tali peccati, per timore che ci vengano minacciati simili mali. Quale fu dunque la loro colpa? Nella loro collera uccisero uomini e nella loro brama mutilarono un toro. Maledetta la loro collera. Ebbene, chi ci potrebbe educare in maniera più amabile di così? Inizialmente, per il vecchio popolo c'era la vecchia alleanza, e la legge, come un pedagogo, guidava il popolo con il timore, e il Logos era un angelo. Al popolo nuovo e giovane, invece, fu donata un'alleanza anch'essa nuova e giovane, e il Logos fu generato, e il timore fu volto in amore, e quel mistico angelo, Gesù, fu partorito. Lo stesso e medesimo pedagogo, infatti, da prima diceva: «Temerai il Signore Dio». Adesso, invece, a noi raccomanda: «Amerai il Signore tuo Dio». Per questo ci viene anche comandato: «Cessate dalle vostre opere», cioè dagli antichi peccati. «Imparate a fare il bene, fuggi il male e fai il bene. Hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità». Questa è la mia nuova alleanza scolpita nelle antiche lettere. Non bisogna quindi fare oltraggio alla novità del Logos. Anche nel libro di Geremia il Signore dice: «Non dire che sei troppo giovane, infatti prima che io ti plasmassi nel ventre ti conoscevo, e prima che tu uscissi dal seno materno io ti avevo consacrato». La profezia può dire tali cose alludendo a noi, in quanto prima della creazione del mondo Dio ci conosceva e ci aveva destinati alla fede, e ora, avendo avuto solo recentemente compimento alla volontà di Dio, noi siamo dei bambini, giacché in riferimento alla divina elezione e alla salvezza siamo dei neonati. La legge è la pedagogia divina. Perciò aggiunge: «Ti ho stabilito come profeta per le nazioni». Dice che egli, Geremia, deve profetizzare e che a quelli che sono chiamati bambini non deve sembrare disonorevole che egli sia designato come troppo giovane. La legge, infatti, è la grazia antica dataci dal Logos per mezzo di Mosè. Per questo la scrittura dice: «La legge fu data per mezzo di Mosè», non da Mosè. Fu data dal Logos per mezzo del suo servitore Mosè, e di conseguenza era adatta solo a un tempo determinato. La grazia eterna, invece, e la verità, vennero per mezzo di Gesù Cristo. Osservate le parole della Scrittura. Riguardo alla legge dice solo che fu data. Della verità, invece, che è la grazia del Padre ed è l'opera eterna del Figlio, non dice più che viene data, ma che venne per mezzo di Gesù, senza il quale nulla è venuto all'esistenza. E in effetti, appunto, Mosè cede profeticamente il posto al pedagogo perfetto, che è il Logos, e preannuncia in oracolo il suo nome e la sua opera pedagogica. Così, consegnando al popolo i comandamenti dell'obbedienza, gli presenta anche il pedagogo. «Dio susciterà per voi», dice, «un profeta di mezzo ai vostri fratelli, come me», cioè Gesù figlio di Nave, e alludeva con ciò a Gesù figlio di Dio. Il nome di Gesù preannunciato nella legge era una prefigurazione del Signore. Prosegue quindi dando al popolo un vantaggioso consiglio. «Ascoltatelo», dice, «e l'uomo che non ascolterà questo profeta viene minacciato». È così che Mosè ci profetizza il nome del pedagogo Salvatore. Per questo i profeti gli mettono nelle mani un bastone, un bastone da educatore, segno di comando e di autorità, affinché coloro che il Logos della persuasione non guarisce, li guarisca la minaccia, e coloro che la minaccia non guarisce, li guarisca il bastone, ma coloro che neppure quest'ultimo guarisce vengono divorati dal fuoco. Sorgerà un bastone, dice, dalla radice di esse. Osserva la sollecitudine, la sapienza e la potenza del pedagogo. Non giudica secondo l'apparenza e non condanna secondo il sentito dire, ma giudica l'umile con giudizio e condanna i peccatori della terra. E per bocca di David: «Il Signore educatore mi ha educato e alla morte non mi ha consegnato». Infatti l'essere educati e corretti dal Signore pedagogo ci allontana dalla morte. Per mezzo del medesimo profeta dice: «Con bastone di ferro li pascerai». Sulla stessa scia dice l'Apostolo nella lettera ai Corinzi: «Che cosa volete? Che io venga a voi con un bastone o con amore e spirito di mansuetudine?» Ma per bocca di un altro profeta sta scritto: Il Signore manderà il bastone della sua potenza da Sion. Questo tuo bastone pedagogico e questo tuo vincastro mi danno conforto, dice altrove. È la potenza del pedagogo, veneranda, confortante, salvatrice. Contro coloro che ritengono che il giusto non sia buono. Dio ama l'uomo. A questo punto alcuni ci incalzeranno dicendo che il Signore non può essere buono se vi è bastone, minacce e timore. Fraintendono infatti a quanto pare quello che afferma la Scrittura. Chi teme il Signore ritorna al suo cuore e dimenticano la più grande prova del suo amore per l'uomo, il fatto cioè che per noi si è fatto uomo. Ma il profeta, in maniera ben più degna di lui, prega con queste parole. Ricordati di noi, poiché siamo polvere, ossia partecipa alla nostra sofferenza, poiché tu stesso hai patito e hai sperimentato la debolezza della carne. Il Signore, il pedagogo, è quindi sommamente buono ed è irreprensibile, essendosi unito per un eccesso d'amore alla natura di ciascuno di noi uomini nel partecipare con noi al sentimento della sofferenza. Non vi era infatti nulla che il Signore avesse in odio, poiché certamente egli non può odiare una cosa e allo stesso tempo desiderare che quella cosa che odia esiste, e ugualmente non può desiderare che una cosa non esista e contemporaneamente essere causa dell'esistere di ciò che non vuole che esista. Né può esistere qualcosa se egli non vuole che esista. Se il Logos odia una cosa, vuole che essa non sia, e nulla può essere se non riceve da Dio la causa del suo essere. Quindi nulla è odiato da Dio né dal Logos, giacché i due sono una cosa sola, Dio. Come sta scritto, in principio il Logos era in Dio e il Logos era Dio. Ora, se egli non odia nessuna delle cose che esistono grazie a lui, ne consegue che le ama. E certamente molto più degli altri esseri amerà l'uomo, comprensibilmente essendo esso la più bella delle sue creature ed essendo un animale amante di Dio. Dio ama l'uomo, il Logos ama l'uomo. E se qualcuno ama qualcosa, desidera essere di utilità a ciò che ama. E poiché ciò che è di utilità è senz'altro migliore di ciò che non lo è, e nulla è migliore del bene, il bene è di utilità. Ora tutti riconoscono che Dio è buono, quindi Dio è di utilità. Il bene infatti, in quanto è buono, non fa altro che essere di utilità. Dunque Dio è di utilità a tutte le cose. Ed è chiaro che qualcosa non può essere di utilità all'uomo senza prendersi anche cura di lui, e non è possibile che si prenda cura di lui senza essere sollecito di lui. Ebbene, chi è di utilità consapevolmente è migliore di chi non è di utilità consapevolmente, e nulla è migliore di Dio. Essere di utilità consapevolmente non è null'altro che essere sollecito di qualcuno. E Dio si prende cura ed è sollecito dell'uomo. Egli lo dimostra con i fatti, guidando, come fa un pedagogo, l'uomo tramite il Logos, il quale è l'autentico collaboratore di Dio nel suo amore per l'uomo. Ora, ciò che è buono non è detto buono perché ha qualche virtù. Infatti, diciamo che la giustizia è un bene, ma non perché ha qualche virtù, essa stessa è una virtù, bensì perché è buona in se stessa e per se stessa. Anche sotto un altro aspetto si dice che ciò che è utile è buono, non perché piace, ma perché è di vantaggio. E la giustizia è appunto tale, è una virtù, è un bene, in quanto desiderabile per se stessa, e non è piacente. Non giudica cioè secondo il favore, ma assegna a ciascuno secondo il merito. E ciò che è utile è vantaggioso. Or dunque, dall'analisi risulta che tutti gli aspetti che appartengono a ciò che è buono caratterizzano anche la giustizia. Il buono e la giustizia partecipano delle stesse qualità. E le cose caratterizzate dalle medesime qualità sono uguali e simili l'una all'altra, perciò la giustizia è cosa buona. È per amore che Dio rimprovera e castiga. Se dunque il Signore è amorevole e buono, come può adirarsi, dicono, e punire? Bisogna pertanto dare una spiegazione, per quanto possibile brevemente, anche a riguardo di tale obiezione. Questa divina economia, infatti, è vantaggiosa al fine di una retta educazione dei fanciulli e agisce nell'ordine di un aiuto necessario all'uomo. Invero, molte tra le passioni sono guarite dal castigo, dall'imposizione di precetti severi e dall'insegnamento di certe verità. Il rimprovero è come una chirurgia delle passioni dell'anima. Le passioni sono un'ulcerazione della verità e devono essere combattute tagliandole con l'operazione chirurgica. Il rimprovero assomiglia a un farmaco che scioglie i duroni delle passioni, ripulisce le sporcizie della vita, cioè le lussurie, e inoltre appiana le escrescenze tumorali dell'orgoglio, riportando l'uomo al suo stato di salute e di verità. L'ammonimento è una sorta di cura che viene prescritta all'anima malata. Le indica le cose che deve assumere e le proibisce quelle che non deve assumere, e tutte queste cose la conducono verso la salvezza e la salute eterna. Anche il generale, quando infligge ai colpevoli multe pecuniarie e pene corporali, imprigionando o imponendo le peggiori umiliazioni, o addirittura quando punisce con la morte, ha per fine il bene, volendo dare un ammonimento ai militari a lui subordinati. Ugualmente anche il nostro grande generale, il Logos, capo di tutti, ammonisce coloro che recalcitrano contro la sua legge per allontanarli dalla schiavitù, dall'inganno e dall'asservimento all'avversario e schiacciare le passioni dell'anima, e in tal modo li conduce nella pace verso la santa concordia del vivere comune. Ora, come al genere del consiglio si affianca il genere dell'esortazione e della consolazione, così al genere laudativo si affianca quello dell'ingiuria e del biasimo. Si tratta dell'arte di rimproverare, e il rimprovero è segno di benevolenza, non di odio. Sia chi è amico che chi non lo è, biasimano, ma il nemico lo fa con spregio, l'amico con benevolenza. Ebbene, non è dunque per odio che il Signore parla duramente agli uomini. Avrebbe potuto farli perire a causa delle loro colpe, e invece per noi ha persino sofferto. È un pedagogo buono che con molta abilità si serve di parole dure per esprimere il rimprovero. Le sue parole d'oltraggio sono come una frusta che risveglia la mente intorpidita degli uomini, e allora, una volta risvegliateli, può passare ad esortarli. Quelli, infatti, che la lode non spinge con l'esortazione a convertirsi, li pungola il rimprovero, e quelli che, come morti, il rimprovero non riesce a richiamarli alla salvezza, sarà l'insulto a rimetterli in piedi e in cammino verso la verità. Frusta e correzione si addicono in ogni circostanza alla sapienza. Chi ricompone dei cocci e ammaestra uno stolto, ridà sensibilità alla terra, dice la scrittura, e spinge all'intelligenza chi era ormai senza speranza. Perciò aggiunge chiaramente: egli ridesta il dormiente da un sonno profondo, sonno che più di ogni altra cosa assomiglia alla morte. Il Signore stesso, alludendo alla cura variegata nel suo modo di agire e nei benefici che dona, chiarisce con estrema limpidezza questa idea quando dice: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore». Poi soggiunge: «Ogni mio tralcio che non porta frutto, egli lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, egli lo ripulisce perché porti più frutto». Infatti, la vite che non viene potata si riempie di fogliame. Così anche l'uomo. Il Logos è il coltello che ripulisce le sue prevaricanti fronde, costringendo le sue energie a portare frutto e non a produrre solo concupiscenza. Pertanto il rimprovero fatto agli erranti ha per fine la loro salvezza, e il Logos si adatta di volta in volta, armonizzandosi come una melodia, alle attitudini proprie di ciascuno. Ora tende la corda, ora la rilascia.